na masali. Sasa niko fresh, kwanza Johnny check, washa Phantom dom, dio nazo kondo. Mimi na wewe wawili ghetto giza limetanda. Sogeza mwili mtoto panda juu ya kitanda. Hakuna kuwasha taa wala mshumaa, bana mwezi unang'aa. Mapenzi yanasikika, macho yako yananiita. Napenda unavyonishika, taka kuwa na wewe maisha na kutengeneza maisha na kutengeneza watoto. Na tania tulia, unalia, unaumia, unasema umejaa tele, mimi na wewe tuwe milele. Digital one.